6. Ascolta e controlla. 1. Scriverai a Nicola? No, non gli scriverò perché non ho il suo indirizzo. 2. Avete risposto a Maria? Sì, le abbiamo risposto qualche giorno fa. 3. Vi piace questa idea? No, non ci piace affatto. 4. Signora, le piacciono questi abiti? Sì, mi piacciono moltissimo. 5. Signore, le posso fare una domanda? Certo. 6. Giorgio, che cosa cerchi? Ti manca qualcosa? Sì, mi mancano gli occhiali. 7. Scusa, ti dispiacerebbe ripetere? Non ho capito. 8. Scusi, professoressa, le dispiace ripetere? Non ho capito.